Garibaldi fu ferito, di una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1803. Gli Stati Uniti raddoppiano il territorio, la Francia ha venduto la Louisiana. Concordato anche tra Chiesa Cattolica e Repubblica Italiana, nel nostro paese il cattolicesimo sarà religione di Stato. Parigi ha ancora problemi nelle colonie, essendo Minig verso l'indipendenza. In Scozia sperimentata una barca a vapore per il trasporto merci, è un successo. Una buona giornata da Paolo Piacenza e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura, l'accordo raggiunto dopo mesi di trattative fra francesi e americani sulla Louisiana, e così l'estensione territoriale degli Stati Uniti raddoppia. Fu chiamata Louisiana in nome del Re Sole, Luigi XIV, e i francesi ne avevano ripreso pieno possesso nel 1800. Ma gli americani avevano messo gli occhi su New Orleans. Un porto come quello avrebbe permesso di portare le merci via Mississippi fino al mare. Così il presidente Jefferson ha inviato Robert Livingstone a trattare con Parigi, dandogli mandato di acquistare la sola città e dintorni per 2 milioni di dollari, alzando poi l'offerta a 10. Ma il ministro degli esteri di Bonaparte, Talleyrand, preoccupato dalla condizione delle pubbliche finanze, ha alzato la posta offrendo un territorio gigantesco che va dalle zone fredde del Nord America a quelle quasi tropicali del Golfo del Messico, dalle montagne rocciose alla foce del Mississippi appunto. 60 milioni di franchi il prezzo, pari a 15 milioni di dollari, di cui solo 8 effettivamente pagati a causa dell'indebitamento francese verso gli Stati Uniti. Jefferson è rimasto all'oscuro di quest'ultima parte della trattativa, ma a quanto si dice decisamente soddisfatto. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Il cattolicesimo diventa religione di Stato, e questa è la principale differenza fra il concordato firmato tra Chiesa e Francia e quello siglato con la Repubblica Italiana dallo stesso Napoleone Bonaparte, che ne è il presidente. Per il resto i due testi sono quasi coincidenti, dalla nomina statale dei vescovi al riconoscimento da parte della Chiesa della nazionalizzazione di una serie di beni. La Francia continua ad avere parecchi problemi con le sue colonie. Gli ex schiavi della colonia di Saint-Dominique non si sono fermati dopo la morte del loro leader Toussaint Louverture. Sotto la guida del suo luogotenente, nero ed ex soldato francese Jean-Jacques Dessalines, i rivoluzionari hanno sconfitto avertieri francesi guidati dal generale Rochambeau. Dessalines si preparerebbe a dichiarare l'indipendenza. Ha percorso un canale arrivando fino al Clyde, il fiume che attraversa Glasgow. Ma soprattutto lo ha fatto rimorchiando due chiatte da 70 tonnellate. Parliamo della Charlotte Dundas, una barca mossa dalla forza del vapore, la prima che si sia dimostrata in grado di servire nel trasporto merci. A realizzare il motore, dopo molti tentativi falliti sia negli Stati Uniti sia in Europa, è stato un ingegnere di nome William Symington. È morto uno dei maggiori industriali inglesi e uno dei principali uomini d'affari d'Europa nel settore alimentare. Si tratta di Arthur Guinness. La prima birreria la creò nel 1755, è stato anche presidente della potente corporazione dei birrai e oggi, nell'anno della sua morte, la sua azienda produce 20.000 barili di birra l'anno. È tutto per questa edizione, curata da Simone Spezia e Paolo Piacenza, che l'ha condotta. Sul nostro sito www.radio24.it, oltre a riascoltare la versione audio del Gazzettino, potete anche scaricarne una versione da leggere e, volendo, stampare. Se volete scriverci e non avete penna e calamaio, l'indirizzo email è gazzettino@radio24.it.